mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Fare un passo in avanti importante, quindi bene, adesso aspettiamo che arrivino Angela e François e mi pare un per quello che abbiamo letto un ottimo risultato. Era uno sparo, ma era Renzi, che era l'ascoltatrice, che era ascoltatori, che parlava sì di una zona conflittuale come l'Ucraina, ma era davanti al Parlamento, a Montecitorio, e parlava della crisi ucraina, di questo vertice che c'è stato a Minsk. Sembra che abbia portato almeno, diciamo così, a un primissimo passo, come diceva Renzi stesso. Poi ne parleremo. Tante le notizie anche oggi, quella che sicuramente spicca per diciamo il livello di tragedia e anche di indignazione che sta provocando è la morte di questa neonata in Sicilia, perché ben 3 ospedali l'hanno respinta che non avevano posto, aveva dei problemi respiratori appena nati. Parleremo di questo, vedo già dei vostri commenti, siccome lo lancio un po' prima, andate a guardare la pagina Facebook di Effetto Notte, dei vostri commenti su questa tristissima vicenda che giustamente avrà bisogno quanto prima di chiarimenti. Avremo tra l'altro l'assessora regionale alla salute della Sicilia, Lucia Borsellino. Intanto vi dico anche il numero per i messaggi, se volete commentare come sempre le notizie, 349-238-6666. Vedo tra l'altro che Sanremo è già iniziato prima di Effetto Notte, qualcosa di sdicevole, sentiamo cosa succede. Amara. Credo che siano i giovani, questi. Sì, Amara si chiama, effettivamente. Credo il titolo di questa canzone. Credo che sia Credo. No, è proprio Credo. Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Vedremo se avrà fortuna questa sera, tanto per darvi un assaggio, poi ne parleremo alla fine della puntata, ogni tanto magari alziamo anche un po' il volume, qualcuno dice insomma se ascolto te non mi va di ascoltare le canzoni, altri dicono che bello ascoltare le canzoni durante Effetto Notte, insomma è difficilissimo sempre accontentare tutti, facciamo un po', intanto vi racconto come sempre l'inizio della giornata. Catania muore una neonata perché non c'è posto in 3 ospedali, Mattarella esprime incredulità, Effetto Notte l'assessora regionale alla salute Borsellino. Ucraina, primo passo al vertice di Minsk, Putin chiede il cessate il fuoco da domenica, Angela Merkel dice di non farsi illusioni. Vertice europeo, Grecia ma anche Ucraina in primo piano a Bruxelles, libertà di stampa, secondo il rapporto di Reporter Senza Frontiere l'Italia perde 24 posizioni, giornalisti minacciati dalla mafia, in cima alla classifica invece i paesi scandinavi. Istat, poche nascite, cresce l'aspettativa di vita, per la prima volta diminuiscono anche le mamme straniere in Italia. Sanremo, volano gli ascolti al festival, questa sera protagoniste le cover e tra gli ospiti Spandau Ballet. E partiamo quindi dalla morte della neonata in Sicilia, che non ha trovato un ospedale disponibile ad accoglierla dopo che in seguito a un parto naturale ha poi però accusato dei problemi respiratori, ha fatto il giro di questi ospedali e non ha trovato nessun ospedale disponibile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso incredulità, la Ministra Lorenzin ha mandato, vedevo poco fa, gli ispettori del Ministero e l'Assessora regionale alla Salute Lucia Borsellino ha manifestato grande indignazione, poi più tardi la sentiremo qui a Effetto Notte. Passiamo adesso intanto alla pagina estera. Con l'esito al vertice di Minsk per trovare una soluzione al conflitto ucraino, la situazione in Ucraina è sempre molto tesa, mentre infatti erano in corso i negoziati a Minsk, una colonna militare russa formata da 50 carri armati e altri mezzi bellici avrebbe attraversato il confine. Mancano poche ore alla tregua, sentiamo allora quali sono i dettagli di questa intesa che sarebbe stata raggiunta dopo la maratona negoziale della notte. una roadmap per la pace in 13 punti. In particolare, il nuovo accordo prevede una tregua da sabato a mezzanotte e una zona cuscinetto ampliata attorno al fronte, con il ritiro delle armi pesanti. L'OSCE verificherà la tregua e seguirà le operazioni di ritiro delle armi sin dal primo giorno. Potrà anche usare droni e satelliti. Cessate le ostilità, dovrà iniziare un dialogo sull'organizzazione di elezioni locali a Lugansk e Donetsk, oltre che sul futuro regime nelle aree separatiste, sulla base della legge ucraina che concede loro temporanea autonomia. Entro 30 giorni il Parlamento ucraino dovrà varare un decreto che definisca i confini geografici della zona autonoma. Dovrà essere adottata una legge che garantisca l'amnistia per coloro che hanno partecipato al conflitto. Una nuova Costituzione ucraina, concordata con i rappresentanti di Donetsk e Lugansk, dovrà entrare in vigore entro fine 2015. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi approfondiremo questo tema con un esperto di quest'area geopolitica. E poi l'Ucraina è in primo piano anche al vertice dell'Eurogruppo a Bruxelles, dove si discute naturalmente anche il primo piano di Grecia, per la quale pare vi siano i primi spiragli. Di questo ci occuperemo tra poco e capiremo in che senso vanno, insomma, questi spiragli. Intanto siamo sulla politica italiana con il caos delle riforme. Percorso ad ostacoli a Montecitorio per le riforme costituzionali, con i lavori dell'Aula soggetti a continue interruzioni, dibattito quindi più dedicato alle procedure parlamentari e alle richieste del numero legale che ai contenuti. In tutto ciò la protesta del Movimento 5 Stelle, prima contro la Presidente della Camera Boldrini, poi contro il Partito Democratico, così Alessio Villarosa. Qui iniziamo a mettere anche noi le barricate, perché ci sentiamo i diritti di questi 9 milioni di cittadini completamente calpestati. Non è una legge ordinaria quella di cui stiamo parlando, ma una legge costituzionale che dovrebbe prevedere addirittura tempi molto più ampi rispetto a quelli che sono stati dati. Da seduta Fiume a seduta Palude attacca Brunetta, Forza Italia, non partecipiamo al mercato degli emendamenti, aggiunge Scotto di Sel, riferendosi al tentativo di mediazione del PD per ridurre il numero delle proposte di modifica, mediazione comunque fallita, con i 5 Stelle che parlano di PD renziano come il nazismo del XXI secolo. Malumori anche nella minoranza Dem, della maggioranza Zanetti Scelta Civica commenta: quello che sta succedendo in questi giorni è la prova provata di come la prima delle riforme non è né quella costituzionale né quella elettorale, ma è quella dei regolamenti parlamentari. Calendario delle riforme dunque a rilento, l'approvazione a questo punto arriverà ai primi di marzo. Il ministro Boschi tuttavia ribadisce: il nostro obiettivo resta lo stesso, quello di cambiare l'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo del mille proroghe, perché sono in arrivo alcune novità. Dagli interventi sul regime dei minimi agli incentivi sul rientro dei cervelli passando per Equitalia, in arrivo alcune novità nel mille proroghe all'esame della Commissione Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. Sulle partite IVA, un emendamento del governo che consente la proroga per un anno del precedente regime fiscale agevolativo o la possibilità di scelta tra il vecchio sistema e quello nuovo. Altro capitolo riguarda la riapertura dei termini per accedere alla rateazione delle cartelle Equitalia, anche per quelle imprese che hanno perso il beneficio per un ritardo dei pagamenti, le quali potranno chiedere di accedere ad un nuovo piano fino ad un massimo di 72 rate mensili. E ancora una proroga di 2 anni degli incentivi per il rientro dei cervelli e l'innalzamento dell'anticipo sugli appalti al 15% per rispondere ai problemi di liquidità delle imprese. Non ci sarà invece nessuna proroga di 3 mesi degli sfratti. L'ipotesi è stata smentita dal ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, il quale in una nota ha precisato che per alcune categorie di inquilini verrà garantito il passaggio da casa a casa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E quella di oggi è stata una giornata difficile per il traffico a Roma per lo sciopero dei vigili urbani. Erano più di 10.000, secondo gli organizzatori, i vigili urbani che hanno sfilato in corteo a Roma nel giorno del loro sciopero nazionale. I caschi bianchi sono arrivati nella capitale da tutta Italia per chiedere un nuovo contratto in linea con quelli delle forze dell'ordine. Siamo ad alto rischio, vogliono i compiti di poliziotti, però ci pagano da impiegati comunali. Chiediamo che venga fatto un contratto apposito per la polizia municipale e non che sia abbinato a quello degli amministratori comunali. Alla base della protesta anche il caso delle assenze nella notte di Capodanno a Roma. Basta fango, vogliamo più rispetto, hanno chiesto a gran voce i vigili urbani. Capodanno hanno esagerato la cosa, l'hanno fatta diventare gigantesca proprio per cercare forse di coprire qualche altra cosa che già c'era sotto. mafia capitale e cose del genere. I politici nostri vogliono solo che noi facciamo le multe perché gli servono i soldi per fare i bagordi loro. E noi a questo non ci stiamo, ce l'hanno molto con noi proprio per questo. I caschi bianchi hanno sfilato anche sotto il Campidoglio, scandendo slogan contro il sindaco Marino. Rispetto il diritto di sciopero, ma quella del 31 dicembre è stata una situazione anomala sulla quale sono in corso diverse indagini, ha sottolineato dal canto suo il primo cittadino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca, è una notizia che ho visto poco fa uno studente italiano che è stato trovato morto a Londra, Carlo Cogoni si chiama, 21 anni, nato a Cagliari ma residente in Friuli, è morto a Londra nella notte tra domenica e lunedì. Lo studente è stato trovato privo di vita dalla fidanzata nell'appartamento in cui avevano dormito. La causa del decesso, le cause non sono state ancora chiarite, ma secondo gli inquirenti potrebbe essere un malore, naturalmente adesso stanno indagando. Ma torniamo a parlare della sentenza di primo grado al processo per il naufragio della Concordia. Il giorno dopo la condanna a 16 anni, di cui abbiamo parlato ieri, per l'ex comandante Francesco Schettino, malumori arrivano dall'isola del Giglio, che si aspettava ben più di 300.000 euro di risarcimento, che sono invece stati riconosciuti, e insoddisfatti del verdetto anche i magistrati di Grosseto. Pene inadeguate, se Schettino avesse avuto un altro comportamento con un rito abbreviato avrebbe potuto beneficiare di sconti di pena, ha detto l'ex procuratore Francesco Verusio, che ha condotto tutte le indagini. Sentiamo l'intervistato Raffaella Calandra. Sinceramente mi aspettavo una valutazione da parte dei giudici non costituite, perché, ecco, tanto per fare un esempio, per quanto riguarda il naufragio è prevista una pena fino a 10 anni, noi gliene hanno dati solo 5, ma un naufragio di una nave di transatlantico di 300 metri con 4.000 persone sopra, cioè 10 anni quando si danno? Allora penso che i colleghi determineranno se proporre anche appello per quanto riguarda la misura di queste pene, che mi sembrano veramente non adeguate alla gravità del fatto, ecco. E questa è l'opinione del procuratore, avete sentito. Occupiamoci anche di libertà di stampa, ne parleremo in modo più approfondito dopo, ma intanto vi dico che secondo il rapporto 2014 di Reporter Senza Frontiere la libertà di stampa peggiora nel mondo, un po' dappertutto, e crolla in Italia. Sentiremo poi fino a che punto. Lo sport adesso per Alex Schwarzer, altri 3 mesi di stop per avere l'uso e i controlli degli ispettori WADA nella casa dell'ex fidanzata Carolina Kostner, sanzionata 16 mesi per complicità. Sentiamo Schwarzer sulle accuse che proprio la Kostner gli aveva lanciato negli ultimi mesi. Noi nella nostra vita sportiva non ci siamo mai, non abbiamo mai tanto conversato su questo, no? Lei aveva il suo staff, io il mio. Io penso che tante dichiarazioni adesso magari sono anche un po' frutto della delusione, no? Perché lei è stata condannata alla fine per un errore mio, e quindi che ci sta tutto, insomma. Parliamo di Sanremo adesso e alziamo un po' ancora, vediamo su Rai 1 che succede. Vince questa sfida e accede alle semifinali. State stringendo troppo la mano, mi si ferma la circolazione. Eliminazione diretta tra i giovani, proprio a coppie, via uno, avanti là. Adesso ci sono Amara e Rachele. Vince questa sfida. Rachele. Ha alzato la mano della persona sbagliata. Questo è un gaffe di Conti. Amara. Aveva per mano tutte e due le ragazze, ha alzato quella di Amara che non ha vinto, mentre Rachele dall'altra parte. Adesso spiega perché, vabbè, adesso deve metterci una toppa. Comunque, vabbè, cose di poco conto. Noi invece poi parleremo di cose molto impegnative più tardi. Ogni tanto alziamo per alleggerire un po'. Vi ricordo i numeri per i vostri commenti. Gli sms vanno al 349-238-6666 e poi c'è sempre la pagina Facebook per i vostri commenti. Vedo già, per esempio, Sergio da Milano che scrive: sono di origini mazzaresi, quindi Mazzara del Vallo, immagino, in provincia di Trapani. La sanità siciliana non è mai stata un elite, con tutti i soldi che spendono all'ARS, cioè l'Assemblea regionale siciliana, è una vergogna sentire queste notizie della neonata morta di cui parleremo tra poco. In Sicilia ci vorrebbe un rastrellamento stasera di tutta la classe politica. Quando vado in ferie prego Dio di non aver mai bisogno della sanità siciliana per le mie 3 bambine, vergognosi, dice Sergio da Milano. Insomma, tutta la Sicilia sarà così. Adesso è successo questo caso. Francesco: perché non condannare lavori forzati primari e o i direttori sanitari degli ospedali che hanno respinto la bimba? Vedevo anche Crocetta che dice: cadranno diverse teste già domani, ce ne occuperemo dopo. Intanto aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui le notizie, ancora un messaggio fra i vari sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di questa notizia indegna naturalmente in qualsiasi occasione, ma soprattutto per un paese come il nostro, poi nel 2015 della morte di questa neonata che non ha trovato un ospedale che l'accogliesse. E c'è Chiara che dice non è ammissibile, poi Lorella, queste sono notizie che non vorrei mai sentire, mi dispiace molto. Enrico, strano, in Sicilia non succede mai niente del genere, ironico. Cristiano, atroce, spero solo che niente resti nella cronaca e nella vita di chi ha creato questo dolore come un accidente, una negligenza fatale. Certi cinismi ospedalieri sono orrendi. Comunque, poi ne parleremo. Adesso invece vi ricordo, se avete acceso in questo momento, quali sono le notizie principali della giornata. L'Europa che apre alla Grecia, il vertice di cui parleremo tra poco, vedremo in che senso. Cessate il fuoco in Ucraina, ma ancora c'è molto da fare dopo questo vertice di Minsk. Non ci sono posti in ospedale, questa è la notizia che vi anticipavo, una neonata muore in ambulanza, la ministra Lorenzin invia ispettori a Catania. Riforme per quanto riguarda la politica avanti a singhiozzo, scontro tra il PD e il Movimento 5 Stelle. E poi operazioni anomale sulle popolari, aperta un'inchiesta, continua ad andare avanti questa vicenda. Poche nascite e poche morti, cresce l'aspettativa di vita in Italia, per la prima volta diminuiscono anche le mamme straniere. Questi sono i dati Istat. In Italia meno libertà di stampa, è 73esima, ma in classifica l'Italia perde 24 posti. A Sanremo è la sera delle cover. Europa 24 notte. Parliamo adesso appunto del vertice europeo sull'Ucraina, ma anche e soprattutto forse sulla Grecia. L'Ucraina, diciamo, è stata trattata come tema caldissimo in due vertici, quello di Minsk e poi ne parleremo più tardi, e questo naturalmente europeo. E per quanto riguarda la Grecia, pare che ci siano degli spiragli, la Merkel sarebbe pronta a un compromesso, e qui Sergio Nava che ci dice come interpretare questi segnali. Sergio, ciao. Ciao Roberta. Beh, diciamo la notizia della serata, finché non ci sarà conferenza stampa di questo vertice, che è informale, quindi non ci saranno conclusioni come nei vertici europei tradizionali, la notizia della serata è che è sparita la troika. Questa è una cosa simpatica. Questa è forse la cosa più interessante, nel senso che all'improvviso si chiama istituzioni. È una parola antipatica, diciamo, qualcuno antipatica. Perché dice che è evocativa di qualcosa di un po' deteriore. Evoca soprattutto quegli uomini in nero che arrivano nella capitale e ti dicono cosa devi fare, a parte altre cose. Però, però ci sono lo stesso quegli uomini in nero, è solo sparita la parola, no? Le istituzioni fondamentali internazionali, Banca Centrale Europea, Unione Europea. È un gioco sottile, no? E se vogliamo fa anche sorridere, però il comunicato che è stato diramato di questo incontro che c'è stato tra Ieron Dijsselbloem, che è il presidente dell'Eurogruppo, e il premier greco Tsipras, hanno concordato che da qui a lunedì, quando ci sarà un Eurogruppo, ci sarà un incontro tra il rappresentanti del governo greco e rappresentanti delle istituzioni. Di fatto la troica, però ora si chiama istituzioni, per trovare terreno comune su quello che, diciamo, che queste istituzioni, l'ex troica, proporrebbe per andare avanti col piano di aiuti, che ricordiamo scade il 28 febbraio e lascerebbe la Grecia in braghe di tela se venisse a concludersi, è quello che il governo Tsipras invece vuole proporre. Questa è la notizia della sera. Poi c'è anche quello che ha detto Angela Merkel, che magari possiamo ascoltare. L'Europa è sempre pronta a trovare un compromesso. I compromessi si realizzano quando i vantaggi superano gli svantaggi. La Germania è pronta, ma voglio aggiungere che la credibilità dell'Europa si basa su regole che vengono rispettate e sulla fiducia reciproca. Ora analizzeremo le proposte che presenterà Atene, e lo faranno lunedì anche i ministri delle finanze. Abbiamo quindi ancora qualche giorno, così Angela Merkel. Quindi Sergio, vuol dire che si stanno cercando di ammorbidire entrambe le parti, cosa che è un po' inevitabile. Diciamo che qualsiasi trattativa, qualsiasi negoziato in Europa vive di crisi molto profonde e aperture nel giro di poche ore, l'abbiamo visto, è uno schema ormai classico che abbiamo imparato a decifrare. Questa notte un Eurogruppo fallimentare senza neppure un comunicato stampa e una chiusura che sembrava totale, e poi questo pomeriggio invece la Merkel che si ammorbidisce, Tsipras che comunque apre a un dialogo con questa ex troica, ora istituzioni. Insomma, è chiaro che la Grecia sta giocando una partita molto delicata, ed è chiaro che da qui a fine mese bisogna trovare una soluzione. Sentiamo anche che cosa ha detto Renzi a questo proposito. Il punto centrale non è una politica per la Grecia che viene affrontata dal governo greco nel rapporto con le istituzioni europee. Il punto centrale è la politica economica europea. Questo è il passaggio fondamentale. Cioè noi dobbiamo non semplicemente cambiare politica economica in Grecia. Questo è un problema che riguarda il primo ministro Tsipras, cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro e che deve naturalmente verificare come facciamo tutti e dialogare come facciamo tutti con gli interlocutori istituzionali europei. La nostra battaglia è perché cambi la politica economica europea. Quindi continua, ritorna anzi Renzi a ribadirlo, no? Questo lo diceva prima ancora delle elezioni greche durante il semestre europeo. Adesso che cosa intende esattamente, Sergio, secondo te? Renzi una battaglia che porta avanti dall'anno scorso, lo ha portato avanti anche nel semestre, le parole sono ricorrenti, spesso i messaggi di Renzi sono, si ripetono. Quello che sostanzialmente ha detto è, per usare una sua espressione, cambiamo verso alla politica economica europea, impostiamola sulla crescita, non ci concentriamo solo sulla Grecia, che però apro e chiudo parentesi, è un problema da risolvere al più presto, però non l'ha detto proprio esplicitamente, però insomma dall'austerità continuiamo a rilanciare la crescita. Ricordiamo anche che poi è un po' passato sotto traccia, però c'è anche questo piano Juncker, ancora non si vedono i soldi, dovrebbe partire a giugno, e quindi al momento abbiamo sotto il naso questa situazione greca e ci preoccupa, però c'è un processo, un discorso di rilanciare tutta l'intera economia europea che va fatto e va fatto presto. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Siamo in Europa, un po' più a est, però prima volevo leggere qualche messaggio ancora che sta arrivando sulla vicenda della bimba, della neonata morta in Sicilia perché non ha trovato un ospedale disponibile. Dice Alberto, quando la salute pubblica diventa un carrozzone politicizzato, sentite dire la sanità, costoso, inefficiente e corrotto, ecco i risultati, saluti da Lecce. Ma la prima, dove era la bambina, dove è nata, era in realtà una clinica privata, poi gli altri ospedali che l'hanno respinta, credo fossero pubblici, non sono sicura. Graziano dice, il primo grave errore dei genitori, non si partorisce in clinica privata senza le garanzie di adeguata assistenza in caso di complicanze non eccezionali sia nei neonati che nelle partorienti. Beh, non si possono colpevolizzare i genitori per una cosa così, si partorisce un po' dappertutto, poi ognuno sceglie la struttura che ritiene più adeguata, più comoda, quello che insomma crede. Adesso però concentriamoci sull'altro fronte delicato di cui si è parlato naturalmente anche l'Eurogruppo, ma in particolare al vertice di Minsk, con un vertice a quattro tra Angela Merkel, tra il presidente francese Hollande, tra il presidente russo Putin e quello ucraino Poroshenko. Anche qua sembra che ci sia una pallida buona notizia, sulla quale certo è obbligo, visti i precedenti, muoversi naturalmente, rimanere prudenti. Questo accordo che sarebbe stato raggiunto per un cessate il fuoco, almeno a partire da domenica, sarebbe la mezzanotte italiana più o meno da noi. E in pratica si smette di sparare. Appunto la domenica, in più ci sarà il ritiro, sembra, delle armi pesanti. Putin ha detto che si è riusciti a trovare un accordo sull'essenziale, quindi diciamo il minimo sindacale, almeno il cessate il fuoco, almeno il fatto di non sparare, non si sa se ritirerà poi i soldati. Comunque il presidente dell'Unione Europea Tusk, dopo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Ucraina del presidente Poroshenko, che gli ha dato Poroshenko, ha detto oggi abbiamo ancora speranza per una soluzione specifica, ma il vero test è il rispetto del cessate il fuoco, cioè vogliamo vedere Putin effettivamente poi nei fatti. Nel pomeriggio è intervenuta anche la Casa Bianca, che ha definito l'accordo di Minsk un passo potenzialmente significativo verso la pace nell'est, ma ha aggiunto la Casa Bianca, la Russia deve porre fino al suo sostegno ai separatisti in Ucraina e deve ritirare gli armamenti pesanti e i suoi soldati nell'est del paese. Infine la cancelliera tedesca Angela Merkel da parte sua ha detto di non farsi grandi illusioni sull'accordo perché vede ancora notevoli ostacoli per superare questo conflitto. Allora coinvolgo il professor Aldo Ferrari, buonasera professore. Buonasera. Che insegna storia e istituzioni dell'area turco-caucasica e storia della cultura russa a Ca' Foscari, all'Università Ca' Foscari di Venezia, e ricercatore dell'ISPI. Professore, lei ha seguito la vicenda, sono 10 mesi di guerra. Che cosa le sembra che sia effettivamente uscito da questo vertice di Minsk? Beh, la cosa più positiva è che non è stato un fallimento, che sarebbe stato davvero negativo dopo tanti mesi di insuccessi diplomatici. È un punto di partenza, se davvero questa tregua funzionerà, badiamo che non è la prima perché era già stata proclamata a settembre non ha retto. La tregua è solo il punto di partenza. Quello che c'è di positivo in questa circostanza è che forse si sono buttate delle basi per andare oltre la tregua, cioè per cercare una soluzione politica della questione. E questa è la cosa più importante. Bisognerà vedere, perché proprio questo è ancora poco chiaro, i contorni politici dell'accordo, perché la tregua in sé non regge se non c'è un quadro di riferimento politico più ampio, più di lunga durata. Vediamo se questo è stato realmente, non dico raggiunto, ma almeno abbozzato nelle sue linee principali. Vedo adesso tra l'altro un aggiornamento di un'agenzia di Renzi che dice: l'emergenza Libia come Ucraina è un problema europeo. Si continua naturalmente a discutere su quelli che sono sul tavolo le questioni principali da discutere in Europa, però vedo anche il messaggio di un ascoltatore al 349-238-6666. Scusate, per l'Ucraina bisogna stare attenti perché lì c'è un grandissimo potenziale bellico, se si sbaglia potrebbe a lungo succedere la terza guerra mondiale. È una cosa, professor Ferrari, che si paventa da un po', insomma, no? Il rischio c'è, anche perché ci sono di mezzo poi Russia e Stati Uniti, con gli Stati Uniti che hanno più volte minacciato di armare Kiev, Putin che si è indignato per questo e poi ha detto anche che loro vanno avanti con la loro politica estera, la Russia, senza farsi fermare da pressioni di nessuno. Ma guardi, la terza guerra mondiale non c'è stata quando c'era una reale, fortissima contrapposizione ideologica all'epoca della guerra fredda. Io spero che non ci sarà neanche adesso. L'importante è evitare l'esasperazione del conflitto. Il conflitto è arrivato a questi livelli di pericolosità perché la diplomazia non ha fatto sinora il suo dovere, cioè non si è voluto discutere seriamente. Discutere seriamente vuol dire che tutte le parti devono essere disposte a fare dei sacrifici, a concedere qualcosa. Andare dicendo noi abbiamo tutte le ragioni, l'altro ha tutti i torti, deve cedere completamente, è un modo per non arrivare a un accordo. Professore, però per parte, diciamo, occidentale o dell'Ucraina, quali dovrebbero essere i sacrifici da accettare, i compromessi? Guardi, c'è un solo sacrificio da accettare perché è già realizzato, vale a dire l'Ucraina orientale deve costituirsi in una qualche forma di autonomia da Kiev, va riconosciuto, punto e basta, perché nella realtà militare, nella realtà storica, nella realtà etnolinguistica di questa regione. L'Ucraina è un paese diviso che fatica a stare insieme e è assolutamente in crisi dal punto di vista economico, non può permettersi di affrontare una guerra e non può essere l'Occidente a farle combattere una guerra laddove il paese stesso non ce la può fare. Quindi da questo punto di vista l'Ucraina deve rassegnarsi a procedere verso forme, se non di federalizzazione, che però di per sé non è una brutta parola, federalismo, federalizzazione. Può suonarlo se suona come una sconfitta, una concessione, ma in ogni caso questi territori orientali non dovrebbero più tornare sotto il controllo assoluto di Kiev, questo è un dato che risulta evidente dal terreno stesso. Se non si riconosce questo da parte dell'Ucraina e da chi appoggia l'Ucraina, vale a dire l'Europa e gli Stati Uniti, difficilmente si arriverà a un compromesso. Da parte russa il compromesso vuol dire fermarsi qui, perché davvero la Russia è andata ben oltre quello che le si poteva concedere, se l'è preso in maniera aggressiva, ma se lo ha anche fatto per numerosi errori compiuti da parte occidentale. Sono stati tanti errori da una parte e dall'altra, il momento del compromesso è arrivato, senza compromessi non si arriva a un accordo. Grazie professor Ferrari. Grazie a voi, buona serata. Ci prendiamo questa pausa, vedo ancora i vostri messaggi che potete continuare a mandare alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Alfio per esempio dice sulla pagina Facebook: chiedo ai deputati regionali siciliani, al presidente della regione siciliana, al procuratore della Repubblica di Catania di indagare sul caso. Beh, insomma, credo che ormai sia attivata la macchina delle indagini, degli inquirenti, per capire quali sono le responsabilità, naturalmente. Pausa, ci ritroviamo tra pochissimo. Vogliamo sentire proprio un pezzettino di Raf, che tutti accusano di essere invecchiato, ma gli anni passano per tutti, insomma. D'amore non si muore, e non mi so spiegare perché muoio. È la serata delle cover, sta cantando una canzone di Massimo Ranieri, molto bella, cover, cioè cantano le canzoni degli altri, le interpretano a modo loro, ci sentiamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi continuano ad arrivare, vedo Irene Grandi, sentiamo che cover canta questa sera a Sanremo. insegnato a volerti bene. Hai voluto la mia vita, ecco, ti appartiene. Se perdo te di Patty Pravo, una delle canzoni più belle in assoluto di Patty Pravo questa. E poi sentiremo quali sono i giudizi più tardi. Intanto vedo i vostri giudizi sempre più indignati sulla vicenda della neonata che è morta in Sicilia, ne parleremo tra pochissimo. Poi ci sono alcuni ascoltatori molto bizzarri, soprattutto il 349-238-6666. Qualcuno che scrive: precipitiamo nella classifica della libertà di stampa, nessun commento. 300 muoiono in mare, niente. Si dà la parola a Renzi che parla d'altro. Libero giornalismo o distrazione di massa? Questo ascoltatore è distratto, non so se di massa o singolarmente, ma avevo già annunciato all'inizio che avremmo parlato di questa classifica della libertà di stampa. Dei 300 e oltre che sono morti, abbiamo parlato lungamente ieri, e tra l'altro non con chiunque, ma con Carlotta Sami, che è portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Evidentemente qui qualcuno accende in un momento e pensa che nell'arco di un minuto uno debba aver affrontato tutti gli argomenti. Segui chiunque tu sia, perché non si ferma neanche dalle 21 alle 22 tutte le sere effetto notte, se vuoi avere davvero un quadro esauriente della giornata e degli approfondimenti. Intanto però vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. E partiamo dal vertice dell'Eurogruppo che apre alla Grecia con la cancelliera Merkel pronta al compromesso, forse altri 5 miliardi dalla Banca Centrale Europea. Poi è stato chiesto il cessate il fuoco in Ucraina al vertice di Minsk per vedere di risolvere in modo diplomatico questo conflitto ucraino, e sembra che ci siano almeno dei primi spiragli. Non ci sono posti in ospedale, la neonata muore in Sicilia in ambulanza, la ministra Lorenzin invia gli ispettori. Mattarella, presidente della Repubblica, dice sono incredulo. Riforme avanti a singhiozzo, scontro tra PD e Movimento 5 Stelle. E poi poche nascite, questi dati Istat, e poche morti, ma per fortuna insomma si vede che cresce appunto l'aspettativa di vita. Per la prima volta diminuiscono anche le mamme straniere. E in Italia meno libertà di stampa, è al 73° posto. E poi, ribadisco, ne parleremo. Intanto Sanremo, abbiamo sentito qua e là qualche sprazzo di canzoni nuove dei più giovani e anche invece di canzoni reinterpretate dai cosiddetti big. E adesso tocca occuparsi di un fatto molto grave che è avvenuto in Sicilia. Non so se definirlo un fatto di malasanità, di inadeguatezza delle strutture ospedaliere. Fatto sta, insomma, che una neonata è morta nell'ambulanza privata che la stava trasferendo da Catania a Ragusa. La piccola era nata la scorsa notte in una clinica privata di Catania, dopo un parto regolare poi aveva avuto dei problemi respiratori. Quindi i medici avrebbero cercato invano però un reparto ospedaliero specializzato dove trasferirla. Nessuno però ha potuto ricevere la neonata, perché in nessuno dei tre ospedali atenei dotati di terapia intensiva neonatale c'era un posto letto disponibile. Posti esauriti quindi al Garibaldi, al Santo Bambino, al Cannizzaro. L'unico ospedale della Sicilia orientale che ha risposto all'appello con la disponibilità di accogliere questa bambina è stato quello di Ragusa, che però era distante oltre 100 km, quindi immaginate più di un'ora di viaggio abbondante. Insomma, la bambina è morta durante il trasporto a Ragusa. Sul caso è partita una doppia inchiesta di Ragusa e di Catania, e l'assessore alla salute della regione Sicilia, Lucia Borsellino, ha ordinato un'ispezione. Ed è qui in collegamento e la saluto e la ringrazio della disponibilità. Buonasera, assessora Borsellino. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Quindi che cosa può essere successo? È possibile che una bambina venga respinta da ben tre ospedali, che non ci sia la possibilità di accoglierla, capendo che in quelle condizioni, così piccola, non è che abbia molto margine? Guardi, io la ritengo una cosa ingiustificabile e da assessore naturalmente adotterò tutti gli strumenti che mi sono propri per cercare di accertare quanto accaduto e soprattutto di individuare i vari livelli di responsabilità. Già domani abbiamo convocato una conferenza dei servizi urgente con tutti i direttori generali e le direzioni sanitarie delle aziende etnee che hanno rifiutato la bambina, in particolare l'azienda ospedaliera Cannizzaro, che è un'azienda avvocata per l'emergenza, l'azienda Garibaldi e l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico. Si tratta di tre aziende ospedaliere tra le più grandi di dimensioni di tutto il territorio regionale, dove è presente in ciascuna di esse l'unità di terapia intensiva neonatale. Voglio ricordare a questo proposito che la rete ospedaliera regionale prevede 18 in questo momento unità di terapia intensiva neonatale su 8 8 previste a livello di standard ministeriali, quindi è una rete di offerta sovradimensionata, per cui ritengo assolutamente ingiustificabile il rifiuto che le tre aziende ospedaliere hanno praticato nei confronti di una neonata in condizioni gravi sotto il profilo respiratorio e che naturalmente non poteva in alcun modo essere trasferita in un ospedale a distanza di oltre 100 chilometri e per il quale per cui raggiungerlo sarebbe stato necessario impiegare oltre un'ora e mezza. È assolutamente ingiustificabile. È proprio per questo motivo che ritengo che si debba accertare quanto accaduto nei minimi dettagli e poi, in ragione di quanto accerteremo, naturalmente agiremo sia in via amministrativa, ma laddove si integrassero dei profili penali anche relativi ad omissioni, chiaramente sarà nostra cura informare immediatamente le procure della Repubblica di Ragusa e di Catania, che hanno già a riguardo avviato un'inchiesta. Assessore Borsellino, naturalmente aspetteremo l'inchiesta, le aspetterà i risultati di questa ispezione, ma siccome lei dice che sono strutture, addirittura la rete è sovradimensionata, che il Cannizzaro è per l'emergenza, lei si è fatta un'idea di cosa possa essere successo? Ma guardi, io in questo momento non riesco assolutamente a giustificare un rifiuto di questo tipo. Ne ho parlato anche con telefonicamente con gli stessi manager delle tre aziende, piuttosto indignata. Devo dire che dai primi contatti che ho ricevuto non ho avuto alcuna spiegazione, che intenderò acquisire ovviamente con tutti i mezzi a mia disposizione nel più breve tempo possibile, anche per accertare che i posti fossero realmente occupati. In ogni caso, come dicevo, una delle tre aziende, un'azienda vocata per l'emergenza, che per definizione non può assolutamente rifiutare una bambina in queste condizioni, né tantomeno era appropriato, almeno dai dati che, dalle informazioni che sono in mio possesso, dare luogo ad un trasporto terrestre, tra l'altro verso un ospedale a distanza di oltre un'ora e mezza. Quindi poteva essere necessario appunto un elicottero in quel caso, ma sarebbe stato comunque troppo tardi, troppo faraginosa la cosa, insomma. Assessore Borsellino, quindi attendiamo con lei di capire che cosa è successo e di capire quali saranno le conseguenze. Vi informerò ovviamente del proseguo dell'attività. Grazie molte, grazie e buon lavoro. Lucia Borsellino, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le rammento in pochi secondi, prima voglio guardare ancora qualche vostro messaggio. Anna da Brescia, per esempio, sempre sulla vicenda della neonata: perché non ci chiediamo qual è la responsabilità della casa di cura privata dopo dove la neonata è stata partorita e non hanno saputo gestire l'emergenza respiratoria? Sono un'infermiera, dice Anna, ed è facile lavarsene le mani e mandare un paziente in pronto soccorso quando i medici non hanno la capacità di gestire emergenze. Poi un altro, Roberto da Roma, al 349-238-6666, se una clinica non ha un anestesista in grado di intubare un neonato non dovrebbe far nascere bambini. Alleggeriamo un po', vedo la Tatangelo, un po' anni 40, che sta cantando. Avere dalle braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Bella, bella, Dio come ti amo, di Modugno, indimenticabile. Non male la sua interpretazione. Adesso però occupiamoci di altre cose, parliamo di libertà di stampa, con i dati pubblicati nell'annuale rapporto di Reporter Senza Frontiere. In sintesi, si registra una regressione brutale, questa è la definizione, della libertà nel mondo a causa dell'aumento delle aree di guerra. Nella graduatoria ci sono i primi posti, tanto per non sorprenderci, Finlandia, Norvegia e Svezia, i paesi da sempre, insomma, additati da tanti anni come i più civili, almeno in Europa, i più progrediti. Mentre il più pericoloso a livello mondiale per la libertà di stampa è l'Eritrea, il paese più pericoloso per i giornalisti. L'Italia arretra di 24 posizioni nel 2014. Quali sono le cause? Secondo questo rapporto pesano in questi ultimi 12 mesi, quest'ultimo anno, l'esplosione di minacce, in particolare della mafia, minacce ai giornalisti e procedimenti per diffamazione ingiustificati. In Italia nei primi 10 mesi del 2014 si sono verificati 43 casi di aggressione fisica e 7 casi di incendio doloso a case o auto di giornalisti. E poi i processi per diffamazione ingiustificati, come li definisce questo rapporto, nel nostro paese sono aumentati da 84 nel 2013 a 129 nei primi primi 10 mesi del 2014. E vorrei commentare questo rapporto con Raffaele Lorusso. Buonasera Raffaele. Buonasera. Segretario dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per l'appunto. Ci possiamo consolare col fatto, Raffaele, che è precipitata un po' in tutto il mondo la libertà di stampa con quella che è la nostra posizione? Ma sicuramente non ci possiamo consolare, non si può consolare in Italia, non si possono consolare gli altri paesi che sono caduti più in basso rispetto al passato. Questo significa che nel mondo c'è un attacco anche concentrico alla libertà di stampa. La libertà di stampa viene vissuta come un fastidio e quindi come qualcosa in qualche modo da limitare, se non proprio da rendere, come dire, innocuo o incapace di fare danni. È una situazione alla quale bisogna ribellarsi. Se poi guardiamo alla realtà del nostro paese, le cose, diciamo, non stanno assolutamente bene, c'è poco di cui stare allegri. Noi siamo partiti già l'anno scorso dalla lettura del rapporto ONU sulla situazione della libertà di stampa in Italia, che lanciava, evidenziava tutta una serie di criticità, partendo dai conflitti di interessi mai risolti in giù, e poi ci ritroviamo quest'anno appunto caduti ancora più in basso, dal 49esimo al 73esimo posto, non soltanto appunto per quelle criticità che non abbiamo saputo risolvere come paese, ma anche per un nuovo fenomeno, anzi per un fenomeno che si è accentuato negli ultimi mesi e negli ultimi anni, ossia quello delle minacce ai giornalisti da parte delle organizzazioni criminali. Cioè, la stampa che fa il proprio dovere, i giornalisti che adempiono al proprio dovere, ossia quello di informare l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica di ogni paese democratico, di ogni paese libero, ha bisogno di essere informata per conoscere e quindi per decidere. Finiscono nel mirino perché appunto danno fastidio. Ci sono delle cose che secondo molti di cui secondo molti non si dovrebbe parlare. Questo è molto grave. Raffaele Lorusso, però un po' sorprende che in graduatoria il nostro paese sia superato anche da paesi come l'Ungheria, no? Dove c'è il discusso primo ministro Orban, che è al 65esimo posto. Allora ci si chiede, è effettivamente una classifica che tiene conto di tutti gli aspetti? Credo sia fatta con serietà. Non ho elementi per mettere in dubbio, certo, il lavoro di reporter. Siamo anche dopo il Burkina Faso e il Niger. Infatti io non ho elementi per mettere appunto in dubbio evidenziare criticità nel lavoro di Reporter Senza Frontiere. Io credo che loro abbiano utilizzato dei parametri oggettivi e li abbiano poi declinati e applicati a tutti i paesi. Nel nostro paese c'è l'allarme criminalità che adesso prende di mira anche i giornalisti, ma c'è anche un problema mai risolto, che è quello del carcere per i giornalisti, di cui si parla da tempo, di una riforma, che non arriva, perché come sta accadendo in questo periodo si cerca di abbinare a questa riforma o di far passare insieme con questa riforma tutta una serie di norme che avrebbero, se appunto approvate, l'effetto esattamente contrario, cioè quello di imbavagliare ancora di più la stampa. E mi riferisco per esempio sia all'assurdo diritto di rettifica che si vuole introdurre, ma anche al non risolto problema delle querele temerarie, ossia delle azioni intentate, soprattutto di risarcimento, intentate nei confronti di giornalisti che non hanno alcun fondamento giuridico, ma vengono intentate a mero scopo intimidatorio, appunto per cercare in qualche modo di limitare l'azione del giornalista stesso. Raffaele, fra l'altro ricordo che sono 180 i paesi classificati, e peggio dell'Italia in Europa è riuscita a fare soltanto Andorra, piccolo paese tra la Francia e la Spagna, che è caduto in un anno di 27 posti. Sì. Questo appunto dovrebbe far riflettere soprattutto la classe politica, che si accinge ad approvare una legge appunto nella quale ci sono già ulteriori vincoli, ancora, dici? Ci sono già ulteriori vincoli, e anzi qualcuno nei giorni scorsi pensava addirittura di introdurre, cioè di utilizzare questa legge come una sorta di, come dire, di veicolo, di tram nel quale inserire nuovamente il discorso delle intercettazioni per limitare ancora di più la libertà di azione dei giornalisti e quindi limitare ancora di più il diritto di cronaca. Poi pare che questo aspetto sia stato accantonato, ma questo la dice lunga su quello che, su quella che è, come dire, su quello che è lo stato d'animo e quello che è l'atteggiamento della classe politica italiana nei confronti dei giornalisti e della stampa in generale. Nel rapporto, concludo con questo, Raffaello Russo, si parla del controllo dei mezzi di informazione che nelle aree di conflitto è diventato un vero e proprio strumento di guerra. Guardate cosa sta facendo lo Stato Islamico, per esempio, da questo punto di vista. Raffaello Russo, io intanto ti ringrazio e ti saluto e buon lavoro. Grazie a voi e a presto, grazie di tutto. Grazie Raffaele, segretario della Federazione Nazionale della Stampa. Alleggeriamoci adesso con la musica leggera, dice la parola stessa, e serve appunto per alleggerirsi, con Marta Cagnola, nostra inviata a Sanremo. Ciao Marta. Buonasera Roberta, ci vuole un po' di leggerezza, ci vuole anche un po' di leggerezza. Se no si va a picco. Senti, allora stasera è la serata delle cover, cioè delle canzoni reinterpretate da altri cantanti, che non sono quelli interpreti originali di queste canzoni. Sì. Devo dirti che quel poco che sono riuscita a sentire a sprazzi qua a Effetto Note, io voto per Dio come ti amo di Anna Tatangelo, di Modugno. Guarda, io ho votato per Dio come ti amo e per Una carezza in un pugno di Moreno, che ha fatto una versione molto carina, una versione un po' Giuliano Palma, ma lui è veramente tanto carino, quindi alla fine i miei due voti sono andati. Perché è carino, insomma, ti è piaciuto? Sì, è stata un'interpretazione deliziosa. Sì. Senti, due serate di boom di ascolti, quindi continua a piacere la linea un po' tradizionale di Conti, così familiare, nazionale popolare, come dicevamo. Ieri ho visto poi che Concita Wurst ha cantato, come dicevi tu, tardi, per non sconcertare troppo le famiglie con questa drag queen con la barba, però l'intervista gliel'ha fatta poi, qualche domanda se l'è concessa Conti. Sì, qualche domanda se l'è concessa, non l'ha chiamata Concita, l'ha accolta chiamandola Tom e quindi insomma rimarcando la sua identità maschile, però devo dire che l'intervista è stata molto tranquilla, molto serena e soprattutto, allora, intanto il picco di share, cioè di percentuale di telespettatori, è andato proprio lì, quindi il momento in cui c'erano la maggior percentuale di televisori sintonizzati è stato proprio quello. E poi i social network, soprattutto Twitter, sono impazziti, cioè Concita Wurst ha avuto un successo enorme. Stasera Spandau Ballet come ospiti, revival anni 80, che meraviglia. Allora, io già a novembre ero andata al Festival di Roma apposta per incontrarli, ovviamente oggi impazzita perché hanno fatto questa conferenza stampa, perché posso dire erano dei gran bei ragazzi, ma sono direi dei gran begli uomini, e prima sembravano un po' stupidini, così invece adesso sono anche dei signori molto interessanti con cui è molto bello conversare. Sono maturati, sentiremo poi anche come canteranno oltre alla conversazione. Grazie Marta Cagnola, a presto, a domani, ciao, noi ci sentiamo tra poco.